It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Giovedì 16 dicembre, bentornati di nuovo tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il nostro programma che fa da ponte tra carcere e città, che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV Canale 118. Io sono Caterina Bombarda e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Io ho un compito anche oggi, aprire una casella del calendario delle festività, il calendario dell'Avvento, che per noi è un'occasione, ecco, l'abbiamo usato come modalità per narrarvi il carcere, per radunare messaggi di solidarietà tutto questo mese di dicembre per il carcere e anche dal carcere alla città e viceversa. Di Antonella. Caterina, fammi aggiungere una cosa, sarebbe tanto bello se anche le persone fuori dal carcere volessero cominciare a mandare dei messaggi, perché noi stiamo avendo messaggi dall'interno, che è bellissimo, perché ci sono tanti messaggi veramente profondi, però sarebbe tanto bello riceverli anche dalle persone che ci stanno ascoltando. Quindi scrivete a redazionilibereidentro@gmail.com e mandate i vostri saluti, così li leggeremo. Ma guarda, io in realtà posso accontentarti oggi su questo, perché mi è arrivato il messaggio di Franco Milone, che ci ha fatto un audio, un video messaggio da Milano, dal centro Asteria, dove lui fa volontariato, e si è registrato questo messaggio e lo ha dedicato a tutte le persone detenute, perché lui, da ex detenuto, lui si dice un po' particolare quale è stato in gioventù, perché adesso Franco ha 72 anni, e insomma ha voluto dedicare il suo pensiero. Ascoltiamolo. Ciao a tutti amici, io sono da ex detenuto, vi vorrei fare un augurio. Permettetemi di usare una riflessione, non ricordo chi l'ha scritta, però forse è quella che mi fa partire per farvi un augurio di cuore, veramente. E la sorpresa nasce nel parlare d'altro rispetto alla propria realtà. Cosa voglio dire? Che in certi momenti, specialmente durante le feste, noi dobbiamo pensare a chi ci vuole bene, a chi ci viene a trovare quotidianamente, a chi ci è vicino. E anche se non abbiamo nessuno, pensiamo a noi. A recuperare l'autostima, ad avere fiducia di noi. Questo è il mio più grande augurio. E poi, non la speranza, ma noi, mentre che soffriamo, che siamo chiusi in quattro mura, noi dobbiamo credere in noi stessi e costruirci, rivedere un pochino questa nostra vita, forse che non è una delle migliori, forse ce n'è un'altra piena di libertà e di sogni, perché se noi abbiamo vissuto, se noi abbiamo vissuto anche in una maniera sbagliata, possiamo sempre recuperare. Dobbiamo crederci. Io l'ho avuto grazie al caso, il teatro. E la vita, in fondo, il teatro, che cos'è? È una necessità. È come la luce, la corrente elettrica, l'acqua. E poi è un incontro tra uomini. Il teatro è un incontro tra uomini che si aiutano a vicenda. E la vita è teatro. E rieccoci dopo il messaggio di Franco, che salutiamo, che ringraziamo, ormai è un amico di Eduradio. Continuiamo con le notizie del giorno. Leggo dalla Repubblica: Roma, Re Bibbia, l'Inchem apre il laboratorio di rework e assume 12 detenute. Lo leggo a firma di Clemente Pistilli, dicevo su Repubblica, perché tutte le volte che poi vi narro queste notizie sulle opportunità di lavoro o in carcere, beh, ormai lo sapete, far sì che la pena abbia realmente un fine educativo, un principio alla base del sistema carcerario, è possibile. Basta lavorare per raggiungere questo obiettivo e offrire ai detenuti delle vere chance. Lo ha fatto, e ce lo racconta Clemente Pistilli, la società Linkem, operatore di telecomunicazioni nel settore della banda ultralarga wireless, formando ben 12 detenute della casa circondariale femminile di Re Bibbia e, al termine del percorso, assumendole, bene sì. Questa è una notizia meravigliosa perché non solo sono state formate 12 donne, tra l'altro impegnate in questo settore, ma soprattutto poi hanno trovato un lavoro. Ecco, facciamo che diventi contagiosa questa cosa. Hai ragione, tutte e 12 sono state inserite in un programma di formazione per acquisire le competenze tecniche necessarie per realizzare la rigenerazione degli apparati terminali di rete installate presso le case degli utenti. Il progetto, tra l'altro, è stato articolato in due fasi precise. Nella prima fase, l'Inkem ha avviato, grazie ai propri addetti, un programma di formazione, naturalmente, dovevano insegnare il lavoro alle detenute, al termine del quale hanno rilasciato alle detenute l'attestato con la qualifica addetto alla rigenerazione di apparati elettronici Linkem e poi la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro con l'azienda. E poi nella seconda fase si è passati chiaramente alle assunzioni. Un notevole impatto questo è stato proprio per il carcere stesso di Rebibbia. Infatti la direttrice del carcere ha detto: siamo pronti ad accogliere progetti di nuove aziende che intendano essere nostre alleate per fare in modo che la detenzione possa trasformarsi in nuove opportunità. Ho usato una parola bellissima, alleati, cioè fare rete tra il carcere e le aziende sul territorio per dare opportunità di lavoro dentro. Ricordiamo, dentro, io do queste belle notizie sul lavoro in carcere, ma è il 4% della popolazione che lavora, quindi c'è veramente bisogno di creare altre opportunità. Non è tra l'altro la prima esperienza del genere per la società Linkem, che ha già assunto 10 detenuti nella sezione maschile della casa circondariale, questa volta di Lecce, dopo aver realizzato un progetto di trasformazione digitale chiamato Unio, un sistema di videocolloqui, per ritornare in tema pandemia tra l'altro, con i familiari, che consente ai detenuti di usufruire di postazioni dedicate e progettate ad hoc per fare colloqui in distanza a causa chiaramente del distanziamento sociale. Quindi queste sono le belle notizie di oggi e continuiamo con le notizie di carattere diciamo più generale, più esteso ai paesi del mondo. Questa volta siamo in Corea, vero Antonella? Ci racconti alcune cose. Sì, ti racconto alcune cose che neanche ti aspetterai, Caterina. Appunto. Penso un po' che secondo l'OCSE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione per lo Sviluppo, su 28 paesi, la Corea del Sud è quella con la maggiore disparità salariale tra donne e uomini. Se tra i membri dell'organizzazione gli uomini in media guadagnano quasi il 13% più delle donne, i sudcoreani guadagnano addirittura il 32,5% in più rispetto alle sudcoreane. Nella classifica compilata dal Forum Economico Mondiale in base al Global Gender Gap Index, che considera poi indicatori come il tasso di partecipazione all'economia, il tasso di alfabetizzazione, quello di istruzione, il rapporto maschi-femmine alla nascita, l'aspettativa di vita e la rappresentazione di genere in Parlamento e in posizioni ministeriali, la Corea del Sud addirittura è al 108° posto su 153 paesi. Guarda, ti chiedo allora come si spiega questa tendenza al vittimismo, ultimamente in tendenza per i maschi sudcoreani, anche di misoginia, perché non è comprensibile dato questi dati che hai presentato. Infatti la cosa che ci stupisce è questo: noi non l'abbiamo detto prima, ma in realtà sempre più ventenni e trentenni in Corea del Sud percepiscono come aggressivo e misandrico il movimento per l'uguaglianza di genere e sono convinti che gli sforzi per migliorare la condizione femminile abbiano finito per penalizzare i maschi. La leva obbligatoria per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni, che un tempo tra l'altro c'era anche in Italia, è uno degli argomenti più citati ed è citato proprio come esempio di svantaggio che affligge i sudcoreani costretti a rimandare di 2 anni almeno l'inizio della carriera lavorativa o di interromperla sul nascere, mentre le coetanee gli rubano i posti migliori. E secondo qualcuno le ragioni di questo rigurgito antifemminista e di questa visione falsata della realtà vanno ricercate nella competitività esasperata a scuola e nel lavoro e nella concezione meritocratica della società. Le donne guadagnano meno perché si sforzano meno per la carriera, questo sembrerebbe il loro retropensiero. E anche nei toni estremi, a volte violenti, di alcuni siti online sedicenti femministi. E però, Caterina, questa è una considerazione che si può fare un po' per tutte le società asiatiche. Sono molto rigide, molto competitive. Mi viene in mente il Giappone, forse un po' fuori tema, però per dirti, l'istruzione in Giappone è gratuita, è obbligatoria dai 16 agli 11 anni, l'alfabetizzazione raggiunge addirittura il 99%, e pensa che ogni classe, che tra l'altro le classi sono molto numerose, sono circa 40 bambini, in ogni 40 studenti per classe, è divisa in gruppi che a turno puliscono l'aula, i corridoi, i bagni, le aree comuni, eccetera. E alcune scuole hanno anche delle aiuole e i ragazzi coltivano e si prendono anche cura delle aiuole. Questo per dire che è un sistema complesso, però basato molto sul merito. Ma volevo chiederti, in Corea questo movimento di maschi sul difensive, no? Che conseguenze può avere a livello sociale? Allora, guarda, è diventato un target elettorale, te lo dico proprio in due parole, perché il fenomeno è talmente diffuso che i due principali candidati alla presidenza del 2022 stanno corteggiando i giovani elettori antifemministi. Lee Jae-myung, candidato del Partito Democratico dell'attuale presidente Moon Jae-in, ha condannato su Facebook la discriminazione dei maschi e postato una lettera anonima, tra l'altro, proveniente da una community online sulla necessità di fermare la follia femminista. Il rivale conservatore Yoon Seok-yul, del Partito del Potere Popolare, la scorsa estate aveva detto che il femminismo dovrebbe essere sano, tra virgolette, e non uno strumento per vincere le elezioni e andare al potere, e aveva promosso di realizzare una vera e propria parità di genere e di rafforzare le pene per le false denunce di violenza sessuale. Comunque, questo è uno degli ultimi e dei più diffusi leitmotiv degli antifemministi. E la situazione è questa, cara Caterina. Però, proprio per rimanere in tema di libertà, ascoltiamoci Freedom, sempre del nostro John Baptiste, e dopo, mi raccomando, non perdete l'intervista a Marcello Marighelli, il garante dei diritti delle persone private della libertà personale della regione Emilia-Romagna. A più tardi. Ben ritrovati sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV, e proseguiamo già da ieri, da alcuni giorni, l'intervista chiacchierata che stiamo facendo con il nostro garante per le persone prive della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, Marcello Marighelli. Per chi ci sta seguendo, già da alcuni giorni abbiamo toccato alcuni temi, dal Covid al sovraffollamento carcerario, alla nuova riforma della giustizia a firma della ministra Marta Cartabia. Oggi vorrei toccare sempre con lei, sempre sul tema della riforma, quella che è la proposta del garante della Regione Sicilia, che è anche un professore emerito di diritto penale, di istituire una sorta di figura come viceministro con delega sul tema carcerario. Pensa che una figura del genere possa servire nel tentativo di cercare di arginare quello che è una sorta di anarchia nel funzionamento complessivo dell'amministrazione penitenziaria? Ma guardi, io su questa proposta ovviamente mi sono espresso favorevolmente, però poi ci sono tutta una serie di circostanze, di contesto in cui dovrebbe essere collocata. È chiaro che le problematiche non derivano, a mio avviso, dal fatto che magari una persona che possa dedicarsi a tempo pieno al tema del carcere possa risolvere i problemi di cui abbiamo parlato finora. Occorre che effettivamente ci sia una volontà politica di risolvere queste problematiche, cioè ci sia una volontà politica, ma anche culturale, una maturazione culturale che ci possa fare un passo in più. Noi fino ad oggi, ma anche la nostra Costituzione, parla di trattamento che non deve essere disumano. Quindi abbiamo una forte attenzione, diciamo, rispetto ai diritti umani. Ma i diritti umani, all'interno dei diritti umani e dopo i diritti umani, ci sono i diritti di cittadinanza. Ecco, io credo che l'evoluzione dovrebbe andare verso i diritti di cittadinanza. Quindi il diritto di cittadinanza sarebbe, come dire, dare la possibilità alle persone in carcere di partecipare più direttamente alla costruzione della loro vita. Quindi una maggiore coscienza e partecipazione al lavoro, ad esempio, dentro e fuori il carcere. Quindi una anche partecipazione a quelli che sono i doveri di solidarietà che ogni cittadino ha, quindi anche le persone all'interno del carcere, io credo avrebbero delle grandi possibilità e volontà anche di dare un contributo alla società. E lo vediamo come con le adesioni anche a quei pochi progetti che ci sono di volontario, di lavoro volontario gratuito, in ambito sociale, dentro e fuori il carcere. Quindi ci bisognerebbe avere una visione che portasse la persona in carcere ad accedere a quelli che sono tutti i diritti di cittadinanza e quindi avere la possibilità di vivere più pienamente la vita nella società. Quindi pur stando in un ambito ristretto, poter meglio condividere quella che è lo sviluppo e le problematiche che ci sono nella società e non perdere i collegamenti. Noi oggi viviamo una situazione per cui molte persone entrano in carcere e vivono una sorta di sospensione della loro vita per poi riprenderla dopo una pausa e trovarsi in un mondo che fanno poi fatica a riconoscere. E questo noi dobbiamo cercare di limitarlo, se non eliminarlo. E credo che poi questa esperienza che stiamo vivendo di EduRadio sia un'esperienza che voglia anche rompere un po' questo isolamento, no? E se non altro dal punto di vista della comunicazione, quindi dell'accesso delle persone alla comunicazione, una comunicazione non standardizzata, una comunicazione attenta alle problematiche dell'esecuzione penale, ma tutte le problematiche sociali. Garante, quest'anno è stato spartiacque, diciamo, per tante cose. Un po' la pandemia ci ha aperto gli occhi sul tema della comunicazione, sul tema del distanziamento sociale. Si è tornato a parlare di carcere, purtroppo anche male, perché negli ultimi mesi, sono passati pochi mesi, ecco, dalla diffusione dei video che mostravano i pestaggi al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le chiedo, si tratta di un caso isolato oppure eventi del genere sono più diffusi di quanto non si possa pensare? Ma guarda, io devo dire che è stato con una sensazione di forte dolore che ho visto anch'io le immagini della situazione e dei maltrattamenti, delle percosse nei confronti delle persone detenute all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Credo che un episodio di così grande dimensione sia un episodio sicuramente circoscritto, perché è stato un episodio in un qualche modo vasto e che mostrava una partecipazione di diversi operatori della polizia penitenziaria a questi maltrattamenti. E quindi, come dire, qui veramente viene messo in discussione un principio fondamentale che è quello dell'articolo 13 della Costituzione, che vuole salvaguardare le persone in carcere da ogni violenza fisica e morale e quindi addirittura prevede la punizione di chi la dovesse praticare. E da poco nel nostro ordinamento è stato anche introdotto il reato di tortura che noi non avevamo. Però, come dire, questo fenomeno di Santa Maria Capua Vetere, a mio avviso, sta esplicitando una situazione che io, come dire, dal mio punto di vista ho letto come una sorta di disperazione. Io ho sofferto, ho provato dolore non solo per le persone in carcere che hanno subito le percosse, ma anche per chi le impartiva. Io credo che ho provato sofferenza nel vedere una persona, un lavoratore, arrivare a dei gesti come quelli che abbiamo visto. Per cui credo che sia una sorta di disperazione per l'incapacità di un modello che non sta più funzionando, di controllare la vita all'interno del carcere. Cioè un modello basato su una sorta di supremazia da parte dell'amministrazione penitenziaria nei confronti di delle persone detenute che dovrebbero aderire in maniera del tutto sottomessa a questa supremazia. Ecco, la supremazia della pubblica amministrazione sui cittadini esiste anche fuori e a maggior ragione dentro il carcere, però c'è il principio di legalità, cioè tutto ciò che la pubblica amministrazione opera nei confronti del cittadino deve essere all'interno e assolutamente corrispondente e congruente con quella che è la legge. Ecco, qui si è avuta una evidente violazione della legge. Ora la magistratura porterà avanti i suoi accertamenti e questo lo sappiamo. Quello che va assolutamente non sottovalutato è il piano, diciamo così, amministrativo interno, per cui l'amministrazione dovrebbe interrogarsi sulla propria capacità di autonormarsi, no? Di darsi delle regole affinché certe situazioni non arrivano a un'esplosione così disperata. Ecco, su questo volevo chiederle, può bastare l'iniziativa proposta dal DAP di introdurre delle body cam e di riparare i sistemi di videosorveglianza entro il 2024? Oppure serve altro per molto? È una domanda retorica, mi rendo conto, per limitare questi casi di violenza. Ma i casi di violenza non dovrebbero esistere, a mio parere, perché al di là di questo episodio di Santa Maria Capovetere, che io sono convintissimo che sia un caso isolato, come spero che anche le situazioni di rivolta come quelle che abbiamo avuto a Modena siano dei casi isolati, però altri casi, diciamo così, non frequentissimi, però c'erano già stati dei casi di processi, procedimenti nei confronti di operatori della polizia penitenziaria per maltrattamenti nei confronti di detenuti. Mi riferisco a Ivrea, ma anche a Ferrara abbiamo avuto, è in corso alcuni procedimenti nei tribunali. Questi sono, diciamo così, piccole patologie. Io non sapevo nemmeno che questo termine del 2024 per questa iniziativa della body cam, e direi che è un tempo troppo lungo. Cioè le telecamere devono funzionare, questa iniziativa del body cam può essere discutibile, ma poi se si decide di utilizzarla va assolutamente realizzata. Ma io non credo che la questione sia questa. Cioè noi qui stiamo parlando di un controllo, di una repressione, quindi una repressione anche nei confronti degli operatori di polizia penitenziaria. Non credo che sia questo il percorso giusto. Qui si tratta di capire, di aprire un confronto con chi lavora in carcere per capire davvero quali sono le questioni. Noi qui in Emilia Romagna un pochino ci abbiamo provato con degli incontri che abbiamo realizzato direi per due o tre anni per una capacità anche di leggere i comportamenti aggressivi, i conflitti che ci sono in carcere, come poterli gestire con delle tecniche di de-escalation del conflitto. Bisogna cercare di trovare dei modi di convivenza e di affrontare quelle che sono le tensioni che si possono verificare. Primo fra tutti attualmente abbiamo una situazione della salute mentale delle persone in carcere per molti piuttosto problematica, che non può trovare una risposta solamente di tipo terapeutico o sanitario, ma deve trovare una sua prevenzione, proprio come dicevamo prima, anche cercando di realizzare delle modalità di vita all'interno del carcere che possano diminuire quelle che sono le tensioni. Noi forse siamo abituati a pensare a una persona in carcere che vive di riflessioni, ripiegato su se stesso, sul proprio operato, ma le persone poi devono, dopo la riflessione, devono anche, come dire, agire, no? Per ritrovare una propria strada, e occorrono degli spazi per questa azione e degli indirizzi, quindi occorrono degli spazi per le persone perché possano esprimersi a livello culturale, ideologico, relazionale, nel lavoro. Io credo molto nel lavoro, Castelfranco Emilia, che diciamo così, che ha un po' tante virtù, perché il rapporto tra le persone che sono in carcere e gli spazi aperti è completamente rovesciato rispetto a quello degli altri istituti. Ci sono tantissimi spazi aperti e spazi per il lavoro e meno persone in carcere. Quindi lì vedi come le persone possano realizzarsi in tantissime attività e vivere l'esecuzione della loro pena in una maniera sicuramente più costruttiva e meno, come dire, propensa poi alle esplosioni di malumore, di rancori, di insoddisfazione nei confronti della società. Quella società è la risorsa che tutti noi abbiamo per realizzarci, e che anche le persone in carcere non debbano vivere escluse, ma devono vedere nella società, nelle sue istituzioni, una risorsa e non un ostacolo. Siamo giunti anche oggi ai minuti finali di questa intervista, che si sta facendo sempre più appassionante, e ovviamente ci rivediamo domani, non finisce qui. Ancora una canzone, prima di arrivare ai saluti di fine puntata, rimaniamo oggi con i Subsonica e la canzone è Liberi Tutti. A dopo. E rieccovi di nuovo, vi annunciamo le rubriche a seguire. Abbiamo le pillole di Antigone, in cui si parlerà del difensore civico di Antigone, per l'appunto, e poi ci sarà l'intervista a Ornella Favero, che è la direttrice di Ristretti Orizzonti e la presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia. È l'intervista che segue alla prima che le ho già fatto, e dove questa volta affronteremo varie problematiche inerenti al carcere, per esempio anche quella dei luoghi di affettività all'interno delle istituzioni penitenziarie, e anche il ruolo dei volontari, perché no? Perché è un ruolo che, secondo la Favero, dovrebbe essere riconosciuto di più. Ma scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com e noi vi salutiamo, e sempre io, che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco e Diana Bota, ci rivediamo domani. It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Every star.